con l'autrice e attrice Donatella May per parlare del suo spettacolo. Si chiamava Donatella, come me, che sarà a Roma al Centro Culturale Artemia il 24 e 25 novembre. 25 novembre, giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne. Donatella, ben trovata. Ciao Federico, buonasera a tutti, come va? Bene, bene. Allora, Oh, ci bene. faceva piacere, noi abbiamo ospitato le due versioni dello spettacolo al Radioteatro e mi piace riparlarne ancora con te, visto che lo riporti in scena. Allora, lo presentiamo? Certo, si chiamava Donatella come me, è una nuova versione, è sempre quello, è uguale, però in questo caso mi sono fatta anche aiutare da un regista che si chiama Lamberto Carrozzi per la mia recitazione, in realtà. La scenografia è sempre quella mia in maggior parte e una parte è di Felice Levini. E poi è quello che hai visto tu, più o meno, solo che tu l'hai visto quando è stato prodotto dal Teatro dei Documenti, perché questo spettacolo fu prodotto dal Teatro dei Documenti nel 2011. Sì. E adesso e si chiamava L'importanza di Donatella. Adesso c'è questa nuova, in realtà di nuovo c'è il titolo e un pochino la regia è un po' più ricca, Ok. però per il resto è quello. Si farà il 24 alle 21 e il 25 alle 18 all'Artemia, appunto, che è in via Milcare Cucchini 36. È uno spettacolo importante perché queste due donne, è lo spettacolo su Donatella Colasanti, una delle due vittime del Circeo, quella che si è salvata, tra virgolette, perché ha vissuto altri 30 anni dopo l'evento, e le nuove generazioni neanche li conoscono. Quindi, nonostante tutto quanto si parli tantissimo di femminicidio, di violenza sulle donne, eccetera, eccetera, queste due donne rischiano di essere dimenticate. E tra l'altro è uno spettacolo importante anche perché è un po' un fatto unico nella tua carriera. Tu sei un'attrice brillante, è un episodio del tutto insolito per te ed hai raggiunto anche un gran bel risultato. Grazie, sì, per me è una grande fatica in realtà. A volte penso perché l'ho fatto, perché sentivo che lo dovevo a questa donna che è del mio stesso anno, ha avuto delle cose molto simili a me e infatti lo spettacolo poi è giocato tutto su queste similitudini. E sì, io normalmente sono una comica, per cui in questo caso vesto, ahimè, i panni drammatici. Sì. È proprio, non ha, ha un picco, ha delle piccole aperture al, così, all'ironico, però è uno spettacolo drammatico, sicuramente. Sì. Donna, su cosa hai voluto incentrare l'attenzione nel tuo lavoro? Allora, proprio sui 30 anni della vita di Donatella e anche dell'Italia. Nel senso che ci sono tutte le notizie sulla legge contro lo stupro, che è cominciata a cambiare durante il processo per i delitti del Circeo nel 76, e poi è avvenuta in realtà la legge contro lo stupro. Prima era fino al 96, era considerato reato contro la morale. Dopo 20 anni di lotte è diventato finalmente reato contro la persona. Oltre a questo, io immagino una consapevolezza di Donatella Colasanti che purtroppo non ha avuto, e inoltre ci sono le sue poesie. Ho fatto una ricerca sulle sue poesie, attraverso le poesie anche e le persone che ho conosciuto, che l'hanno conosciuta, ho potuto immaginare che tipo di vita possa aver avuto questa donna, che poi è morta infatti di cancro dopo 30 anni. Queste due giornate come sono venute fuori? Beh, era tanto che lo volevo rifare in realtà, perché 3 anni fa, per i 40 anni dell'evento, nel 2015, l'ho fatto a Latina, che è il luogo dove sono iniziati i processi, il processo, perché l'evento è successo al Circeo e quindi il processo è iniziato a Latina. L'altro anno l'ho fatto a Latina, la sera, in un'aula di un liceo, trasformato in un teatro, in un'aula magna, per un'associazione che era stata presente durante il processo per i diritti del Circeo, e la sera, il 24 sera, l'ho fatto per 379 persone, e il no, 279, scusa, e il giorno dopo per 295 tra studenti e insegnanti. Ed è andato benissimo, è stata una cosa stupenda. E a Roma purtroppo la gente, non lo so se ha delle... Non ho mai visto il teatro strapieno, solo una volta quando ha debuttato, solo in quella settimana lì. Perché non lo so, la gente, a parte che a Roma la gente non va a teatro, ma comunque anche ha delle paure o delle cose. Io in realtà non parlo del Circeo, non parlo mai del massacro, se non in modo assolutamente edulcorato, lo faccio trapelare dai monologhi di Donatella, ma non ne parlo mai. Quindi è uno spettacolo in realtà poetico e di memoria, ovviamente. Sì. Donatella, ci lasci anche tutti i riferimenti web per saperne di più sullo spettacolo e sulla tua attività più in generale? Certo, io ho sia un sito che però non è aggiornato, che è www.donatellamei.com, e poi ho una pagina Facebook che anche non è aggiornata, e un profilo Facebook che si chiama, che è Donatella May, e lì ci sono tutte le cose che faccio, ma molto si trova anche nel sito. Io faccio tutte cose al femminile, sono una femminista, bene sì. Non so che è una parolaccia in Italia, ma in America invece sta di nuovo prendendo corpo e si stanno muovendo un po' le cose, dal Me Too eccetera. Sì. We Too, eh? E adesso insomma il femminismo sta, è proprio una parola interessante per gli Stati Uniti. L'altro anno la cosa più pagata che ho fatto è stata per una scuola americana, per la Rhode Island School of Design, e sono stata presentata come un'attrice, autrice comica femminista. Io ho pensato che non avrebbero mai dato i soldi perché avevo usato questa parola, e invece l'hanno dati. E allora ricordiamo, lo spettacolo si chiamava Donatella come me, a Roma, al Centro Culturale Artemia, il 24 e 25 novembre. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Donatella May. Un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo, grazie Federico, a presto. Ciao. Buonasera a tutti, ciao.